Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Under Oath on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Sono Pietro, anche di Solo Vinile Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Non delegare, partecipa! Primi 21:08. Sempre dimenticarsi il cursore giusto. Allora sì, ritornano in voce dopo l'appuntamento pomeridiano e serale di Mezzedes. Le trasmissioni in voce di Radio Onda Rossa, questo è l'appuntamento del martedì sera dalle 21 alle 22:30 circa con Do It Yourself Invasion. E quindi se siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa sulle 87.9 in FM della banda romana e laziale ed in diretta streaming attraverso il sito raggiungibile al www.ondarossa.info, potete ancora ascoltare la radio in streaming, sì, perché questi giorni abbiamo un po' di problemi con il sito, è giù. Però insomma stiamo risolvendo. E quindi in tempi brevi ritorneremo anche sul web con il sito della radio. Radio Onda Rossa, radio nata libera nel 1977, entrata quest'anno nel 40° anno di attività. Radio totalmente autogestita ed autofinanziata e quindi che ha bisogno del vostro sostegno per continuare a vivere. Potete sostenerla attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185 Roma San Lollo. Oppure tutti i giorni potete venire qui direttamente in radio per portare le vostre sottoscrizioni o per acquistare la nuova scarceranda che... appunto, scarceranda, no, la nuova scarceranda 2017. Ancora disponibile qui negli studi di Radio Onda Rossa, quindi 12 euro. Agenda più quaderno. Attraverso l'acquisto di Scarceranda, lo ricordiamo, ne inviamo una gratuitamente a chi si trova dietro le sbarre. Allora, intanto in studio ci è venuto a trovare Emanuele, che è dall'altra parte. Sì, no? No, giustamente, insomma, non è che mi boicotto solo, solo io, insomma, no? Cioè, anche gli ospiti vengono boicottati ed hanno lo stesso trattamento. E niente, adesso puoi parlare. Buon pomeriggio a tutti. Ma com'è, cioè, sta cosa del, cioè, del pomeriggio? Cioè, la vogliamo... No. Insondabile. Insondabile. Sì, diciamo che è un momento della giornata fondamentale e quindi conviene sempre sottolinearlo in ogni modo e augurare che sia un buon pomeriggio. Ok, ma perché, cioè, tu in genere senti che è un momento che viene trattato, cioè non, sì, viene considerato a fondo? Sì, perché è dopo pranzo e solitamente dopo pranzo ci si lascia andare un pochino. Invece supportare il pomeriggio è la prima forma per supportare tutto il resto della giornata. Cioè, a momenti di altissima filosofia. Vabbè, Manuele, chitarra e voce dei Cenere, si può dire? Sì. No, magari non volevi che... Cioè, non volevi essere riconosciuto. No. Come voce, insomma, anche dei Nofu, eh? Sì. Confermo, convintissimo. Okay. Va bene. Allora, mentre sotto è andata la traccia Frozen dei Disumanares, questo dalla ristampa del 2012 del primo lavoro autoprodotto dei Disumanares. Vabbè, insomma, che cosa è successo questo weekend? Come non andare a raccontare quello che è successo appunto questo sabato, perché c'è stata l'ultima edizione del Questo è Roma. E insomma, il festival forse più grande che c'è a Roma. Giunto, io non ricordo a quale. Che numero. Che edizione. Vabbè, possiamo tentare, no? Che pessimi. Va bene, insomma, numerevoli sono state le edizioni del Questo è Roma. Allora, no, vabbè, io ero forse ero scusato, perché non avevo l'influenza e quindi non sono potuto andare. Però ci abbiamo qui Emanuele, che è stato sabato, sì, al Questo è Roma. Allora. Sì. Allora, si è tenuto al Brancaleone sulla Noventana. Dovevano essere 15 gruppi di Roma e non. Purtroppo, allora, la scaletta era come al solito molto densa. Dagli Short Fuse, i Tiger Boom, One Day in Fukushima, Choke Wire, Straight Opposition, No More Lies, Attitudine Alcolica, Naid, Mad, The Unborn, Inferno, Out Out, Nabat e Abrasive Wheels. Non hanno potuto suonare i Godzilla e le tre bambine con i baffi, però penso che comunque il risultato finale del concerto sia stato più che positivo a livello di affluenza di pubblico e a livello di atmosfera. Devo dire la verità, io sono arrivato molto in ritardo, ho potuto vedere solamente gli ultimi due gruppi, cioè in Abbat e gli Abrasi Wheels, però nonostante questo sono stato soddisfattissimo. Allora, già potrebbe essere indicativo sapere a che ora hanno suonato Abrasi Wheels e Abbat, perché erano gli ultimi gruppi in scaletta? Erano gli ultimi gruppi in scaletta e hanno suonato verso, non troppo tardi, verso l'una e mezzo hanno iniziato in Abbat, perché insomma mi ricordo edizioni passate che gli ultimi gruppi andavano a suonare anche di mattina, no? Sì questa roba mica purtroppo è, diciamo, è da me conosciuta per episodi di stanchezza immensa fino alle 5 del mattino ad aspettare diciamo i gruppi a cui ero più affezionato. Insomma, va bene, quindi ti sei visto a Abrasi Wheels, come... Sì, prima Abbat, che devo dire, arrivato all'età di 27 anni non avevo ancora visto, e questo è un grandissimo peccato dato che sono un gruppo storico del punk italiano e diciamo anche a livello culturale sono stati una pietra miliare, anche con il fatto che il loro chitarrista Riccardo Petrini è stato nel collettivo Wuming, come Wuming 5. Loro facevano parte della prima scena punk di Bologna, avendo membri in comune, uscendo da Rough Punk, quindi proprio un pezzo di storia e di cultura, di cultura del punk e non solo, e anche della cultura, proprio della cultura to cure italiana. E tra l'altro da piccolo lessi Skinhead di Riccardo Petrini, rimasi affascinato, per un periodo ho anche pensato alla scelta Skinhead, però poi me ne sono, diciamo, non ho fatto questo errore, perché io sarei stato errore? No io personalmente sarei stato veramente ridicolo. Poi è una sottocultura, se si può chiamare così, affascinantissima, e il libro di Riccardo Petrini ne è una testimonianza. Quindi Abbat sono stati anch'io l'ho visto anche recentemente, insomma suonano. Cioè, non è che è un gruppo che va viaggia su allori di tempi passati, è un gruppo che sale sul palco, esatto, e spacca. Esatto. Nel senso, ovviamente le canzoni sono quelle, non c'è è tutto, diciamo, di pancia, però quella pancia rimane. Quella pancia anche nel 2017, e in Abbat continuano ad averla. Quell'approccio non deludono le aspettative. Va bene, senti, però invece stavamo preparando invece una traccia degli Abrasi Wheels. Sì. Gli Abrasi Wheels mi ricordo me li vidi a un Rebellion, penso del 2000, 2006 o 2007 in Inghilterra, e al tempo ero esaltatissimo da vedermi gli Abrasi Wheels. Adesso non ero così esaltato, ma sono stata una piacevolissima sorpresa, perché continuano a suonare in maniera degnissima. Soprattutto gli Abrasi Wheels sono un gruppo punk rock che diciamo ha iniziato a fine anni 70 di Leeds. Leeds è molto importante, perché da Leeds verranno una marea di gruppi, soprattutto dell'hardcore inglese e dell'ultracore inglese. Quindi diciamo Leeds è una delle capitali del punk inglese e anche mondiale, perché appunto da lì sono uscite delle cose favolose. E quindi no, sono stati una bella sorpresa. Forse il cantante addirittura ha imparato troppo a cantare. Addirittura questa è, se posso, diciamo, riferire una prima impressione, un mio ricordo di sabato sera, è che sentivo che teneva benissimo le note, che non gracchiava mai, però figurati, cioè, va benissimo così. Va bene, allora niente, allora passiamo a un pezzo degli Abrasi Wheels, l'hai scelto tu, quindi Burn 'Em Down. Sì. We'll be right back. Allora, e invece sempre parlando dello scorso weekend, un'altra iniziativa c'è stata in quel del Bencivenga Squat. Insomma, che dire, no? Che iniziativa c'è stata venerdì scorso al Bencivenga? Sì, allora, venerdì abbiamo organizzato Noi Cenere, i Malclango e i ragazzi del Bencivenga una serata, diciamo, chiamiamola release party del 7 pollici nuovo dei Cenere, Fast Youth Anatema. Che però è stata anche una serata benefit per la strumentazione dei Malclango, che è stata rubata ai Malclango la sera del 25 dicembre davanti al Bencivenga, per il consueto antinatale, per che, insomma, il consueto antinatale che si organizza ogni anno il Bencivenga. Niente, avevano parcheggiato fuori il Bencivenga e gli hanno aperto il furgone. Insomma, la scena romana è andata un po' a supportare questa, sì no, questa brutta avventura, anche perché poi i Malclango suonano ovunque, sempre disponibilissimi. I Malclango sono un gruppone, hanno sì. suonato anche per noi l'anno scorso in quella dell'Ipo di Marino per una bellissima serata a sostegno di Rete Onda Rossa. È un gruppo che si prodiga, è molto attivo e insomma fa piacere dare una mano se hanno quando appunto hanno avuto questa brutta sì. disavventura, sì. perché se lo meritano assolutamente. E insomma, chi suona, i gruppi insomma che suonavano? Sì, allora è stata una serata a sei gruppi. Si è partiti con i Tibia, Hardcore Oscuro da Roma, poi hanno suonato appunto i Malclango con il loro clamoroso set a due bassi, batteria, maschere da gorilla e nessuna voce, quindi consigliamo i Malclango a chi qualche voce ce l'ha, cioè voce, qualche suono culturale, qualche, cioè loro sì, canta, sì. cioè si esprimono, non microfonati. Sì, sì, sì, è vero, qualche suono culturale però c'è. Insomma, vabbè, si comunicano attraverso dei cartelloni con il pubblico e sì, sì, cioè, sì, sì, sì. Ed è anche, a me fa sempre molto ridere il genere che loro appongono al logo del gruppo, cioè molto rumore per nulla, e mi piace tantissimo questo modo di vedere, non finalizzato ma puntato tutto sul mezzo, un mezzo senza fine, questi Malclango. Bellissimo questo modo di interpretare. Tu come lo, cioè proprio se, perché poi è una noia mortale, lo so, però mi piace, cioè tu come lo definiresti quel suono lì? I Malclango sono molto molto singolari, diciamo così. Ovviamente si inseriscono in tutta una serie di, come si diceva qualche anno fa, post tutte cose. Quindi sicuramente è un gruppo che parte da un'istintività punk, da un'istintività hardcore, però la pezza hardcore arriva in qualche modo. La pezza hardcore arriva nonostante non ci sia una voce, diciamo, canonica, e nonostante non ci siano distorsioni, nonostante non ci sia chitarra, ma solo due bassi. Suonano sempre sotto il palco con la batteria rigirata, quindi diciamo creano un evento sui generis ogni volta che suonano, è molto interessante. Diciamo che è proprio come tipo di, poi lo diciamo spesso pure da questi microfoni, il senso un po' dell'hardcore è quello di andare a distruggere, ad eliminare la distanza che c'è appunto e la differenza che c'è tra pubblico ed esecutore musicale. Loro proprio suonano in mezzo alla gente, pure se c'è un palco non ci suonano sopra, e sono molto fisici, perché poi insomma con i loro vari balletti, cioè vabbè, è un'esperienza che sì. da consigliare sì, a ognuno, sì, sì, diciamo. Sì, sì. No, a prescindere dal tipo di musica che vi piace di più, insomma, sì, sì, sono veramente da vedere. Sì, vabbè, sì, insomma, sì. Come non parlare così dei Malclango, no? Sembra che insomma. Assolutamente. Anche per esempio, infatti, come dicevi tu, da consigliare a chiunque, anche se non è esattamente nelle mie corde, per esempio, però magari non l'ascolterei a casa così spesso, però è dirompente vederli dal vivo, quindi consigliamo di supportarli a ogni concerto. E tra l'altro usciranno a brevissimo, credo, con il loro primo lavoro su vinile. Hai capito? E usciranno sulla Subsound Records, che è un'etichetta di Ciampino, qui di Roma. E vabbè, insomma, attendiamo il vinile. Va bene, insomma, scusa se ti ho interrotto. No, assolutamente. Va bene. Poi sì, gli altri gruppi erano insomma, l'abbiamo nominati prima. Pure i Tibia mi sono piaciuti, cioè, molto personali comunque nella loro venivo nel frattempo distratto dall'altra parte del vetro e ti chiedo scusa. Tibia, sì, hardcore molto molto personale. Chitarra mezza black metal a tratti. Sì, due chitarre senza basso. Suono molto moderno, molto molto oscuro, diciamo. Secondo me fanno parte di quel filone che alla lontana nasce con i Tragedy del dark hardcore, sì, che però poi si è evoluto in mille modi diversi. Effettivamente anche a me sono sembrati, diciamo, strizzare un minimo l'occhio a un certo tipo di black metal moderno, anche esso, però molto interessante. Sì, no, vabbè, sono d'accordo. Va bene, poi insomma, Malclango, Tibia e... E poi hanno suonato, Noi Cenere abbiamo suonato, abbiamo invitato due gruppi meravigliosi, due gruppi di amici che sono gli Abortive dalla Spezia e gli Skaia dalla Valtellina, dalla provincia di Sondrio. E Abortive, primissimo e primitivo hardcore, velocissimo, sparatissimo, senza fronzoli. E mentre Skaia, interessantissimo, intelligentissimo, gruppo, diciamo, gruppo dalle tematiche queer, musicalmente a metà tra il deep beat, il fastcore. Io ci sentivo moltissimo un certo tipo di fastcore queer, come ad esempio il Limp Bizkit. E sono stati micidiali sia gli Abortive che gli Skaia. Allora, Abortive dalla Spezia. Abortive dalla Spezia, Skaia dalla Valtellina. Ok. Ma stiamo parlando un po' di due iniziative che ci sono state, una il venerdì, una il sabato. Quella del sabato, insomma, sicuramente di maggiore richiamo a livello di pubblico. Immaginiamo, insomma, il grandissimo lavoro che c'è stato dietro per organizzarla, insomma. Quindi complimenti ai ragazzi comunque della Rotten Ink. E invece, per quanto riguarda voi, cioè, è stato facile trovare un posto per suonare? Cioè, comunque, diciamo che l'iniziativa, per come era fatta, non era costruita per un richiamo di folle, no? Sì, assolutamente. Anzi, siamo stati contentissimi comunque sia di aver potuto ridare un buon rimborso ai gruppi, sia del benefit che siamo riusciti a tirare su insieme, appunto, alla collaborazione sia dei Malclango che dei ragazzi del Ben Ci Venga. E diciamo che non è stata proprio linearissima l'organizzazione di questa serata, dato che abbiamo avuto praticamente una decina di giorni per organizzarla. Il nostro caro Gianluca, il nostro caro batterista, aveva deciso presidente aveva deciso che ci sarebbe stato un release party di Cenere per il 13 gennaio. Neanche io ne ero a conoscenza fino al 2 gennaio. Poi, diciamo, sempre il suddetto presidente ha avuto la buonissima idea di prendersi un febbrone che l'ha tenuto fermo una settimana, e quindi, diciamo, ci siamo dovuti mettere di pazienza io e Edoardo, che è il bassista di Cenere. Però diciamo, il Ben Ci Venga ci ha subito dato supporto per l'organizzazione di questa serata. Vabbè, un po' di persone sono venute. Sì, sì. C'è stato pure un picco abbastanza affollato. Sì, sì, sì. Verso mezzanotte e mezzaluna stavo io in sottoscrizione. Era un continuo di persone nuove che entravano. Quindi anche vecchi, eh? Anche persone vecchie. Anche persone vecchie. Anche capelloni con il pizzo. Ah, sì, sì, sì, sì, anche io ho notato. Sì, vabbè. Volevo fare un po' di selezione. Di selezione, però anche i capelloni con il pizzo a una certa ora sono arrivati abbastanza molesti a voler entrare, sì. Sì. Va bene, va bene. Allora, io direi di ascoltarci qualcuno dei gruppi che hanno partecipato venerdì scorso. Iniziamo con gli Skaia. Allora, qui dal loro lavoro a... E questa è Ricercata Certezza. We'll be right back. E quindi dopo gli Skaia abbiamo ascoltato qualche traccia degli Aborti, beh, sì, perché insomma la durata media è intorno ai 20 secondi, no, beh, sì, lo stavamo dicendo a microfoni spenti, bel concertino che hanno tirato fuori gli Aborti, diretti, semplici, come devono essere diretti, belli, belli, belli. E insomma, poi quindi abbiamo pronti i Cenere. Allora, niente, è uscito questo 7 pollici. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, diciamo è il primo 7 pollici dei Cenere. Due anni fa, quando ci siamo formati, abbiamo fatto uscire, dopo un mesetto, abbiamo registrato e fatto uscire una cassettina. E poi abbiamo registrato i pezzi per questo 7 pollici. Allora andiamo un po' alle origini. Sì, sì, sì, gruppo, sì. Nato quando? In che situazione? Allora, il gruppo dovrebbe essere nato, anzi, sicuramente è nato nel 2014. Nel aprile-maggio 2014, formato da me alla chitarra, Valentino di Sad Attack Zin alla voce, e sempre il solito Gianluca, il presidente. Alla batteria. E sì, è nato, diciamo, e tuttora rimane un gruppo fast core straight edge. Allora, parentesi, cioè, immagino che vi siete conosciuti, cioè, o almeno insomma suonate tutti, sia il presidente Gianluca che te, insomma, suonate nei Nofu. Sì. Quindi a un certo punto, cioè, già vi vedevate tutte le settimane, perlomeno, insomma, per suonare insieme. Perché fare un altro gruppo? Allora, diciamo che c'è una categoria di pensiero molto affascinante, anche se molto pericolosa, che si chiama il piacere malato, o diciamo placer maldito. È un modo di interpretare la vita secondo dei dettami. Diciamo, il voler suonare con Gianluca è proprio esemplare. Tra l'altro Gianluca continua, sta in ascolto e continua a mandarmi insulti, quindi lo salutiamo. E quindi cioè, ci stai dicendo, insomma, che è una forma di accanimento verso te stesso? Sì. Ho capito. No. Sì, è così, però è più a 360 gradi. Nel senso, molto spesso determinate cose non piacciono e basta, e quindi te ne allontani, dispiacciono. Okay. E altre ti piacciono e ti ci avvicini. E sono nette e chiare come nette e chiare. Invece, tutti gli enti toccati dal piacere malato, placer maldito, sono degli enti ripugnanti, dove però si trova piacere a frequentarli. Quindi, diciamo, è esemplare. Il fascino del ribrezzo. Sì, sì, è qualcosa, un appetito malato, non so come dire. E questo è il rapporto che ci ha portato. È una sfida invincibile. Sì, sì, c'è anche la variabile della sfida. Però è proprio il fatto di essere attratti anche da ciò che è fastidioso, nocivo e disarmante, come Gianluca, per esempio. No, capisco. E niente, insomma, da questo fascino. Fascino repulsivo. Sì, sì, benissimo. Hai coniato un nuovo tormentone. Sì, fascino assolutamente. Fascino repulsivo. Va bene. No, Sì, siamo nati nel 2014 come gruppo straight edge, senza basso, chitarra, voce e batteria. E ovviamente dato i membri, per gioco, per scherzo, poi, dato l'affinità che ci legava e il piacere malato che ci legava, abbiamo continuato a portare sobrietà in ogni nostro concerto e in ogni nostro brano. Siamo arrivati, non so come, al primo 7 pollici, dato che è stata una fatica immensa sia coordinare tre personaggi del nostro calibro, a cui si è aggiunto da 3 mesi Un altro personaggio affetto da piacere malato, Edoardo, un giovane punk, un nostro carissimo amico, al basso. Perché no, lo devo sempre sottolineare, uno dei più grandi esperti di post-punk e new wave di Roma. Sì, assolutamente, è un grandissimo, uno dei pochi e grandissimo esperto di anarcho-punk, di post-punk, di new wave. E vorrebbe fare anche un gruppo post-punk, quindi ragazze e ragazzi, contattatelo, assolutamente ne ha bisogno. Sì, sì. Comunque, tornando ai Cenere, è entrato anche Edoardo. Abbiamo registrato questo 7 pollici. A parte gli scherzi, il nostro è un fastcore straight edge che almeno inizialmente si rifaceva, diciamo, alla scena olandese più politicizzata, più impegnata, Bettercore, Sin Red, Lerm, Manlifty Banner. Poi ovviamente noi non siamo così dotati di creatività e di tecnica e non raggiungeremo mai questi gruppi, quindi ovviamente è uscito un qualcosa di personale. Anche i testi di Valentino sono ovviamente, oltre ad avere l'aspetto di, diciamo, la tematica dello straight edge, della sobrietà, lo abbinano sempre a un impegno politico. Cioè, che valore ha la sobrietà, la lotta a determinate sostanze all'interno delle lotte? Questo, diciamo, si può trovare anche nei testi di Valentino, oltre a dei testi alquanto imbarazzanti, bellissimi ma imbarazzanti, come ad esempio una nostra hit dal nome abbastanza, diciamo, che dice tutto, Nudo e Legato. Quindi si spazia tra la follia della mente di Valentino a testi più seri, sobrietà e politica. Allora, mi chiedevo, appunto, ascoltando le tue parole, portare avanti appunto un discorso straight edge all'interno di ambienti libertari, dove appunto non si fa dell'antiproibizionismo, no? Sì. Anzi, del proibizionismo. Scusa, però, ti avevo capito comunque, sì, ogni caso. Come vi denunciare? Come. Allora, ovviamente la nostra. Cioè, sono riuscito a fare una domanda non facendola. Cioè, l'hai capita? Sì, l'ho capita benissimo. Stiamo sulla stessa lunghezza d'onda. No, ovviamente, diciamo, gli straight edge, o comunque, per non definirsi, le persone che comunque sensibili a questa tematica delle sostanze, della lotta alle sostanze in un certo tipo di percorso, siamo pochissimi. Siamo noi Cenere e altri grandissimi ragazzi, altri, diciamo, 4-5 massimo ragazzi che hanno tutta la mia stima. Ma qui a Roma parli di Roma, quindi proprio qui, sì, parlo di Roma, sì. Qui a Roma saremo massimo in una decina. Forse negli anni 90 c'era un movimento maggiore, sì, legati alla Legion, al metalcore, che comunque nasceva a inizi anni 90 a Siracusa negli Stati Uniti a seguito delle esplosioni di gruppi come appunto gli Air Crisis, i Wagon Reich. Quindi anche Roma è stata influenzata e si è costituita questa crew, la Legion. Molto importante, mi dicono, dato che non ne ho potuto avere esperienza diretta, un concerto degli Shelter, quindi proprio di un gruppo, ok, vegan, straight edge e anche Hare Krishna, diciamo il super saiyan al massimo livello. E mi dicono tutti che da quel momento molte persone le potevi incominciare a vedere con collanine colorate e altri simboli del Krishna core, diciamo. E sì, politica e straight edge sono usciti molti opuscoli nel corso degli ultimi anni, soprattutto devo dire negli Stati Uniti, che parlavano di questo binomio, o soprattutto che si scontravano contro un certo uso di sostanze all'interno di movimenti radicali. Uno che mi viene in mente intitolato Anarchia e alcol, uno spreco. Nel senso, vengono analizzate, ovviamente il punto di vista sobrio, straight edge, almeno come lo portiamo noi, è molto molto cazzone, molto molto tranquillo, e non abbiamo mai rotto le scatole a nessuno. Ovviamente è semplicemente, per come la vivo io e penso come la viviamo noi, è semplicemente la testimonianza che ci si può divertire, si può stare bene anche in un'altra maniera. E questo, ad esempio, sì. Perché mi pare di ricordare qualcosa, forse a Roma, qualche iniziativa anche a Milano, dove si è tentato appunto non solo di lasciare la scelta personale oppure la comunicazione attraverso i testi, ma anche di costruire un'iniziativa alcol free, no? Sì, sì, sempre con i Cenere. Abbiamo organizzato il, non mi ricordo esattamente il mese, comunque durante il 2016, sempre al Ben Ci Venga, che continuiamo a ringraziare nonostante la follia di un'iniziativa alcol free, perché ovviamente è molto difficile alzare magari poi soldi benefit in un'iniziativa alcol free. Sempre al Ben Ci Venga abbiamo organizzato una serata benefit per Nahuel, che è un compagno arrestato per terrorismo, ovviamente in maniera totalmente infondata, veramente totalmente infondata, non è retorica, sì, ma sì, semplicemente ne abbiamo parlato anche di questi microfoni in okay. passato, sì, sì. Diciamo, compagno che faceva parte della crew Straight Edge Madrid, e quindi ci siamo sentiti di portare il nostro contributo organizzando, e la nostra complicità oltre che solidarietà a lui, organizzando un concerto qui a Roma, sempre noi tre Cenere. Al tempo ancora non c'era Edoardo. La serata è andata benissimo, ovviamente si è basata sempre sul piacere malato e la follia di Gianluca, organizzando una serata al Ben Ci Venga, creando un palco da wrestling con materassi che che si è dovuto incollare Gianluca. Noi abbiamo dai dato cassonetti solo di tutta Roma, sì, sì, sì, sì, e dai gruppi Facebook, regalo se te lo vieni a prendere, di tutta Roma. Noi abbiamo dato solo una mano, e comunque anche quella mano che gli ho dato è stata pesante, perché comunque ci siamo trovati per esempio un giorno io e lui a Monte Tiburtini a dover prendere un materasso dal quinto piano di una casa e senza ascensore trasportarlo per le scale, che per carità fa sempre parte di quella categoria mentale di cui parlammo. E del quindi, piacere e quindi malato, avete ricostruito all'interno del Ben Ci Venga un ring da sì, sì, sì, un ring da wrestling con tanto di scaletta. Ovviamente, ripeto, non voglio avere nulla a che fare con questo tipo di ideazione. È stata tutta colpa di Gianluca. L'iniziativa, ovviamente, era organizzata da noi Cenere, da ragazzi del Ben Ci Venga, quindi ce la siamo accollata tutti. Certo. Però l'ideazione è di Gianluca. Però fa parte insomma del piacere repulsivo, no? Fascinazione repulsiva. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Che ovviamente, figurati, mettere tanti stupidotti come noi all'interno di un luogo liberato come il Ben Ci Venga, con dei materassi e una scala da cui lanciarsi l'uno sull'altro, ovviamente, diciamo, ossa rotte se ne sono contate? No, non se ne sono contate. Lividi sicuramente, però devo dire sì, sì, è stato molto molto repulsivo e affascinante. Quindi, buttarsi l'uno sull'altro. Partecipavano sia i gruppi che chi insomma. Sì, c'è stata una grande partecipazione. Anche i ragazzi del Ben Ci Venga sono stati paradossalmente molto contenti e hanno apprezzato l'idea di Gianluca di fare una cosa del genere. Comunque sul goliardico immagino non fosse la sfida fisica, no? No, ma coi Cenere non puoi andare oltre il goliardico, non c'è nient'altro oltre il goliardico. Sempre grazie a noi su quattro soggetti, quindi bellissimo. Va bene, senti, allora no, vabbè, perché poi ci perdiamo insomma mille diramazioni. Questo 7 pollici dove l'avete registrato? Allora, l'abbiamo registrato qui a San Lorenzo, lo studio di Cangiarlo. Hai capito? E l'abbiamo registrato in un pomeriggio. In un pomeriggio, assolutamente, giustissimo. Quello è proprio l'esempio del tipico pomeriggio. E registrato tutto in pomeriggio, presa diretta e mixato dal nostro caro amico Banfio. E, diciamo, il risultato per quello che volevamo è abbastanza affine a quello che volevamo, nel senso diretto, schietto, senza fronzoli, perché non sapremmo neanche adoperarli questi fronzoli, diciamo. Stampato in quante copie? Stampato in 393 copie, non chiedermi perché 393, da un'etichetta tedesca che dal nome Warg Records, vabbè, introvabile, che supportiamo, anche se ci ha fatto penare parecchio, dato che i 7 pollici sono usciti dopo 9-10 mesi da quando abbiamo mandato in stampa. Quindi ci scusiamo ulteriormente, dato che ho l'opportunità di farlo tramite questi microfoni, con tutte le etichette che ci hanno supportato. Dopo 10 mesi gli è arrivato il disco, abbiamo appena finito di spedirlo e quindi adesso siamo a posto. Quindi un'uscita in coproduzione, no? Sì, un'uscita in coproduzione di 6-7 coproduzioni italiane. Tra le quali non te le ricordi, va bene. No, mi ricordo. Purtroppo non me ne ricordo tutti, quindi non vorrei. Comunque, Obdura Distro, che è la mia distro, Nastape, che è la distro di Gianluca, Distruzione, che è di Torino, sì. La distro di un caro amico di Parma, un altro ragazzo portoghese. Quindi, diciamo, purtroppo sicuramente me ne sono dimenticato qualcuno, però comunque abbiamo avuto da subito molto supporto e ci scusiamo, ma adesso è anche grazie a loro che è potuto uscire questo 7 pollici. Va bene, allora, dopo insomma la lentezza insomma dell'uscita di questo lavoro, ci ascoltiamo adesso, recuperiamo con invece la velocità dei brani e ce ne ascoltiamo, ma io lo mando. Sì, allora, 2-3, facciamo 2-3. Vabbè, vediamo, dai. Allora, Fassi tutta una tema inizia così. Le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti, le Da quando pensa alla morte? Allora, quindi queste le prime quattro tracce del 7 pollici Fast Youth Anathema. Queste erano i ceneri. Come ottenere questo dischetto? Ma direi che rispondo con un performativo: venite ai nostri concerti. Sì, senza dare email, che poi alla fine le spese di spedizione costano più dello stesso disco. Il performativo di venire ai nostri concerti, che tanto suoniamo tantissimo, quindi... Cioè, se volete chiamare i ceneri, non so, a Cani Gatti, i ceneri vengono a Cani Gatti. Assolutamente. Annuncio. Abbiamo sempre fatto così, di cui, diciamo, Dario ci ha anche seguito... in un mini tour, quindi è testimonianza fantastico, diretta, sì, sì, dello spirito dei ceneri. Bellissimo. E del modo di vivere dei ceneri. Posso fare una citazione? Vai. Punkt tremoli. Punkt tremoli. Va bene, va bene. Questa era una cosa criptica. E allora, cenere. Vabbè, visto che ci abbiamo qui Emanuele, che è anche dei Nofu, quando esce questo disco dei Nofu? Allora. E il disco Renofu l'abbiamo registrato a luglio al studio Cerchio Perfetto di Torino di Tino Paratore. E il disco quindi da luglio, anzi diciamo da metà agosto, è pronto a livello di master, missaggio e tutto. Abbiamo cercato coproduzioni, anzi un grazie va a Bitto per aver cercato diligentemente come al solito le coproduzioni, e uscirà speriamo tra fine marzo e inizio aprile. È comunque già mandato in stampa, quindi nel senso ora noi non ne abbiamo più la responsabilità dei ritardi. Dovrebbero essere molto precisi questo studio sempre tedesco che ci sta proprio stampando fisicamente vinili, quindi tra marzo e aprile ci sarà il release party anche dei Nofu. Allora, rimanete sintonizzati su Radio Onda Rossa, Do It Yourself Invasion, perché a me me l'hanno promesso, che l'anteprima mondiale della presentazione del disco avverrà da questi microfoni. Io sono pronto, vabbè. Sì, sì, assolutamente. Una promessa ha un valore, non dico giuridico, ma autorevolissimo. Ah, bene, bene. Sì. È stato detto, quindi. Va bene, va bene. Allora, cambiamo un po' argomento, rimanendo nel... No. Secondo me non è proprio un cambiare argomento. No, non è cambiare argomento. C'è un filo conduttore. Il filo conduttore è Torino. Ma guarda che sei bravissimo. Il filo... Vedi? Allora, no, infatti, mi ricollego. Cioè, come mai siete andati a registrare... Allora, vabbè. Nofu. Cioè, come sound... è molto, cioè si rifà alla Torino, cioè almeno, cioè, sì, sì. Comunque vi rifate alla Torino Hardcore, sì. Negazione, avete fatto anche la cover di Negazione, sì. E siete andati a registrare a Torino? Sì, siamo andati a registrare a Torino, diciamo dal produttore proprio simbolo e creatore proprio del suono Torino Hardcore, soprattutto degli anni 90, che è Tino Paratore, e lo studio è il Cerchio Perfetto, che non finiremo mai di ringraziare per l'uscita finale del disco, che è al di sopra di ogni nostra aspettativa, sia anche per la pazienza con cui ci ha sopportato per 4 giorni a Torino, dalla mattina alla sera praticamente, che diciamo sia se abbiamo parlato molto male dei Cenere, possiamo parlare molto male, se non peggio, anche dei Nofu, dato che minimo comune denominatore è sempre il presidente Gianluca. Quindi, diciamo, dove è presente non lui, non se ne esce. Settino prima o poi ascolterà questa registrazione. Spero si faccia una risata e non un pianto, diciamo questo. Tino Paratore è stato ed è il batterista di Church of Violence, gruppo di Torino primi anni 90, gruppo hardcore di Torino primi anni 90. Ha suonato in un disco che tra l'altro avete aperto Church of Violence. Sì, a gennaio scorso probabilmente, gennaio, febbraio, marzo? Forse aprile? Vabbè, insomma. Inizio 2016. Al Forte Prenestino, sì, abbiamo suonato una serata, purtroppo commemorazione di Roberto Perciballi, con Church of Violence, Gioventù Bruciata, che facevano i pezzi dei Bloody Riot, e Noi Nofu. E diciamo Tino Paratore ha creato il suono Torino anni 90 avendo suonato lui nei Church of Violence, avendo suonato in un disco degli Indigesti, che però non si sa se adesso Rudy Medea lo rivendica oppure no, lo rivendica come Acredine oppure come Indigesti. Comunque fatto sta che ha suonato insieme a Rudy, a personaggi storici, e ha prodotto dischi per noi nofu fondamentali del suono che più ci influenza, quali sono appunto i Frammenti, gli Arturo, gli Arsenico, i Bellicosi, addirittura in Erorgasmo. Ha registrato anche China, quindi nel senso per noi è stata veramente un'esperienza incredibile poter andare a registrare lì. Abbiamo fatto un featuring vocale con Giovanni, la voce di Confusione, e 10 anni fa i Confusione erano uno dei miei gruppi preferiti, quindi è stato anche emozionante confrontarsi con dischi e persone di dischi che sono passati per Tino Paratore, per il Cerchio Perfetto. Quindi sì, è stata un'esperienza micidiale. E insomma, con tutto questo parlare di Torino, sembra fatta a caso, vedi come le cose poi tornano come in un cerchio perfetto. Allora, no, perché ci abbiamo tra le mani questo libro, veramente un'opera importante, perché e niente, è un bel volume di 300 e passa pagine, un'opera collettiva dal titolo Perché era lì, antistorie da una band non classificata, la band sono i Franti. Allora, qual è il tuo rapporto con l'editoria punk? Ah sì, il mio rapporto come con dire? L'editoria punk, diciamo, è sempre stato molto stretto, ma soprattutto in questo ultimo periodo, quest'inverno, mi sono chiuso rileggendo libri che avevo letto a 16-17 anni, e leggendo per la prima volta libri, diciamo, appena usciti, sempre legati al mondo del punk italiano. E ho riletto Lumi di Punk, fondamentale, una raccolta di interventi curata da Marco Filopat, e ho letto il libro degli Impact, anche come Macchine impazzite dei China, e adesso sto leggendo il libro dei CCM, Cheetah Grand Motherfuckers, e che è uscito da pochissimo, e devo dire che pensavo che mi sarei annoiato un minimo, avendo già letto molto a 16-17 anni. Libro per me indimenticabile è I ragazzi del mucchio di Silvio Bernelli, che è stato il bassista di Declino e degli Indigesti. L'avrò riletto 5-6 volte, lo conosco a memoria. Per me è stato fondamentale anche per la mia patologia verso il suono di Torino, in negazione di Declino e China. E invece devo dire che sia il libro degli Impact che soprattutto il libro dei China, insuperabile, il libro dei China bellissimo, come Macchine impazzite, mi è piaciuto tantissimo, anche È scritto in maniera strana perché è un intreccio tra una ragazza di 2 anni più grande di me, dell'87, che quindi Kina non li ha vissuti, li ha vissuti solo riverberati nel tempo, e il bassista di Kina. Quindi c'è un capitolo scritto dal bassista di esperienze riguardanti Kina e un capitolo scritto da questa ragazza di cui adesso non ricordo il nome. Stefania Giacobone. Stefania Giacobone, grazie mille Dario. E devo dire che, nonostante ho sentito delle critiche, però per me il risultato è micidiale, è un libro bellissimo. Adesso sto leggendo il libro dei Cheetah Grandmotherfuckers, che, devo dire la verità, è un gruppo che ho sempre ascoltato, ma che non ha mai avuto così tanta empatia come ad esempio per i Kina, per i Negazione, per i Declino. E devo dire che mi ha spiazzato, mi è stato regalato da Bitto per Natale, bassista dei Nofu, e mi ha completamente spiazzato. Ci sono delle storie incredibili per quanto riguarda i rapporti tra scena punk hardcore italiana e scena punk hardcore americana, di cui magari parleremo più avanti in una prossima puntata, magari andremo più nel profondo in questi testi. Però, se posso dare un consiglio proprio schiettissimo, è bellissimo. Quindi adesso, diciamo, Dario mi stava mettendo la pulce nell'orecchio di leggere anche questo libro dei Franti, dato che me lo consigliava moltissimo. Ti avevo consigliato anche il libro uscito recentemente sulla storia dei CGB. Ah sì, di cui molto non... molto bella. Ne abbiamo letto un capitolo qui da questi microfoni, molto diretto. È un concerto hardcore. Perfetto. È un libro che va da solo. Da leggere. Volevo uscire da questo tunnel di libri legati all'hardcore italiano, però a quanto pare non è possibile. Però insomma, attraverso i Franti, che la musica dei Franti forse è un tipo di musica, appunto, che forse si distacca di più dal punk diretto di tutti i gruppi che abbiamo nominato finora. Sì, un discorso musicale forse non così immediato come il punk hardcore di altri gruppi, però insomma chi conosce i Franti, chi conosce i testi dei Franti, la loro storia, erano ben integrati nel circuito punk, e niente, è uscito insomma questo libro già da un paio d'anni, dal titolo Perché era lì, a cura di Cani Bastardi, uscito per la Nautilus, libro assolutamente in no copyright, quindi insomma invitano anche a fotocopiare appunto il libro e distribuirlo, perché insomma sono solo che contenti. Quindi libro di 300 pagine con un ricco DVD in allegato, con spezzoni di concerti anni 80, video, tracce audio inedite, una chicca. Tra l'altro pure il prezzo abbastanza popolare, appunto l'edizione è proprio di qualità, cioè non è un ce l'abbiamo tra le mani, confermo. 16 euro con il DVD, quindi proprio regalato. E insomma, avevamo pensato di leggere un capitolo di questo libro e speriamo di non annoiarvi. E questa è Pietra numero 2, un bel modo di rimanere vivi, di Guido Rossetti. Poche cose possono essere afose e opprimenti come la provincia piemontese a metà degli anni 80. Impazzisco a cercare una fuga mentale da un mondo squallido che sta iniziando in massa a vergognarsi di essere stato impegnato fino a pochi anni prima. Le tettone di Tini Canzino da una parte e il faccione di Bettino Craxi dell'altra mi ricordano che sono un quasi ventenne, non negli anni di piombo, ma in quelli del riflusso, l'onda di merda che ti arriva al labbro inferiore e guai ad aprire la bocca. L'arroganza borghese che ritorna a volume alto e la malodorante presenza dei preti, sozzo cancro del nostro mondo, chiudono alle mie spalle il cancello della mediocrità e lo fanno a doppia mandata. Arriva la televisione commerciale, nuovo simbolo della libertà di questi anni, e ci anestetizza col suo nulla circondante, il nulla pingue di Umberto Smaila, il nulla idiota di Faletti Pistarino, il nulla tumorale della Democrazia Cristiana e della Juve, la vecchia immancabile puttana che si accompagna sempre alle fregole borghesi e all'anestesia di massa. Ci sono dei momenti in cui avrei solo voglia di sparare e di gridare porco Dio per le strade, a scuola, coi parenti. A casa, per fortuna, ho due fratelli maggiori, intendiamoci, di loro potrei fare a meno, a volte. Anzi, pagherei per questo, ma hanno una montagna di vinili e questo è un motivo più che sufficiente per tollerare la loro presenza. C'è di tutto lì dentro, ci sono gruppi dai colori arcobaleno che cantano neni acustiche insopportabili di un periodo che non mi appartiene. Ci sono imitazioni di imitazioni di grandi cantautori, ci sono gruppi prog, ormai troppo prog per risultare credibili, ma ci sono anche dischi autentici, sudati, sacri, dischi che sprigionano sudore e sangue, midollo e rabbia, e lotta, bestemmie, morte, scosse pelviche, scosse di terremoto. È quello che mi serve. Alcuni dischi mi strappano il cuore. I primi tre dei Doors, i vinili dei Jethro Tull dal 69 al 77, i classicissimi di Purple, le angosce virtuose dei Van der Graaf Generator. Ma manca ancora qualcosa, ci vuole più rabbia, rabbia consapevole ma non misurata, libertà selvaggia, voglia di cambiare, per usare un'espressione abusata di un tempo che fu. Il primo disco a cui dedico una bestemmia carica di entusiasmo è Herbeit McFray degli Area. Lì dentro c'è proprio quello sclero intellettuale, quel vigore, quell'autenticità del messaggio, in culo a tutti i meccanismi commerciali che già allora mi stavano inconsapevolmente sui coglioni, proprio come i preti e i carabinieri. Lo conosco a memoria, lo divoro, lo consumo, lo giro agli amici, con poco successo. È un grande passo avanti, sento che non sono più solo, la testa è fuori dall'acqua. Voglio mettere anche le caviglie all'asciutto e decido di passare dall'altra parte della barricata e di comprare un basso elettrico. Lo compro da un ottimo bassista dark e, manca a farla apposta, entro in contatto con un gruppo dark con i quali non ho un bel cazzo da spartire, ma che mi stanno simpatici. Cercano un bassista e mi arruolano nonostante io sappia suonare il basso come so ballare il liscio o cucinare il cinghiale. È un buon inizio. Qualche mese dopo realizzo che le quattro corde sono diverse tra loro e sono dignitosamente in grado di accompagnare le tristezze esistenziali di un giovane simile Robert Smith valligiano. È la primavera del 1986 e proprio qui a Pinerolo, illustre orifizio anale del mondo, ci sarebbe da suonare di pomeriggio in un mega concertone autogestito in cui alla sera suoneranno dei gruppi famosi di Torino. Due di quei gruppi saranno tra le stelle polari di tutta la mia vita, Nero Orgasmo e ovviamente Franti. Facciamo la nostra suonata di pomeriggio, senza infamia e senza lode. La ricordo con tenerezza come molte delle cose di quel tempo. La botta però mi arriva la sera. In quel panorama di creste, spille, jeans strappati, birre, tipi, finalmente, poco da provincia piemontese, arriva sul palco un gruppo che di punk, in senso estetico, non ha una bella minchia di niente. Intorno si respira un'aria di profondo rispetto. Il pogo lascia il passo a un ascolto consapevole. Le birre vengono momentaneamente riposte nelle loro fondine. Il tipo, dall'aria fusissima che si basculava accanto fino a 5 minuti prima, sembra un leone addomesticato. Nessuno lo ha riempito di calmanti, è la potenza dolce ma ferma delle parole dei testi dei Franti. Resto un po' colpito dal quietarsi del casino e dal fatto che queste persone, così in apparenza diverse, vibrino in modo uguale. Qualche decennio dopo realizzerò con molto disincantato dolore che quelle stesse persone sono cresciute in modo diverso, ma questa è una deriva lacerante e forse inevitabile di una certa tipologia dell'animo umano. Correndo dietro a questa selvaggia associazione di idee franticentrica, non posso non ricordare che molti degli intransigenti compagni di quegli anni, anarchici o comunisti, che hanno fatto le pulci al mondo su testi, musiche, vestiti, alimentazione e così via, oggi sono ingegneri, liberi professionisti o capetti di ditte multinazionali. È proprio vero che verso la quarantina spesso, non sempre ma molto spesso, si diventa coglioni borghesi, come quelli che si combattevano 20 anni prima o giù di lì. Io non lo sono diventato e sono sicuro che Franti ne sarebbe fiero. Tornando al concerto, ricordo che al termine della serata le mie certezze musicali presero una botta pari a quella provata poco tempo prima scoprendo gli Area. Mi procuro, allora era possibile senza passare tra le grinfie dei collezionisti, il Giardino delle 15 Pietre, il masterpiece dei gruppi italiani di sempre, e inizio a sezionarlo. sia la parte nera coi solchi e il suono che la copertina e la parte scritta con i testi e tutto quanto. Scopro che non c'è bisogno di essere Guccini o Lolli per dire qualcosa di davvero sensato in italiano. Mi cade l'occhio su quella frase allora difficile da decifrare. L'autoproduzione e l'autogestione come strumenti per la comunicazione e l'esperienza antagoniste. Blue Bass Records. Che cazzo di roba è? L'auto che? E cos'è sto Blue Bass? Quella frase sarà lo spunto di molti pensieri, ma soprattutto di molta roba concreta fatta proprio con quelle parole lì e quelle modalità negli anni a seguire. Ciò che mi stupisce molto è che questi qua non suonano musica punk, non sono vestiti da punk, non fanno i classici 2-3 accordi di molti gruppi punk, ma il loro midollo spinale emana punk fino al profondo della sua sezione. Fenomenale. E la cosa ancora più fenomenale è che proprio come i punk non c'entrano un bel cazzo col mondo riformista che c'è lì fuori. Anche loro sono fuori dal recinto delle mucche, quello con la corrente a 12 volt, misteri della capacità di espressione umana. La cosa figa di ascoltare quel tipo di cose è anche che nella provincia piatta o durante di merda di mucca liquida e molle non c'è nulla di simile. Se vuoi andare in parrocchia alla sede della DC o dei partiti riformisti o al Cineforum, allora puoi farlo anche in provincia, ma se vuoi calarti nell'arteria della mente quella musica così figa, con quell'attitudine così figa, devi andare a Torino. Partire con la 112 Abarth da Tamarro alla volta di Torino, non ci sono alternative, altrimenti vai a ballare con le canzoni di Mixage. E allora che Torino sia, fino ad allora per i rozzi provinciali cresciuti a pane e normalità, Torino è fondamentalmente la città dove l'icona del male, la Giuve di merda, ruba e danneggia un simbolo del bene, il toro. Io nasco minoranza, allora come oggi ho il dono di stare dalla parte dell'1%. Qualsiasi attività io svolga, per cui non parteggio certamente per la merda nero-bianca, ma neanche per i Granata, nonostante i miei genitori lo siano entrambi. Io sono dell'Inter, fatto che dalle mie parti è un po' come essere affetti da albinismo o avere lobby del bird watching. I discorsi calcistici dei miei coetanei negli anni Ottanta sono tutti del tipo gobbi ladri di merda, andate a Mirafiori a leccare il culo agli agnelli, Granata sfigati, pensate al vostro aereo e andate a fanculo, rosicate, perdenti, eccetera, eccetera. I discorsi dei gobbi non hanno avuto nei decenni nessun upgrade. Questo dualismo, curiosamente, è stato tangibile da allora ad oggi nell'underground nostrano. I personaggi più spessi ma più autentici del punk in senso culturale sono sempre stati calcisticamente agnostici o Granata, comunque antigobbi, i finti e successivamente rinnegati per lo più gobbi. Sarà pure un caso, ma è così. Alle cene dei Lions, Zonta o simile materiale umano da Gulag non troverai ex punk Granata, ma troverai fior di gobbi che ti diranno che coglione che ero da giovane. Ma quanto mi sono divertito però, guarda come ero pirla in questa foto. Per non trovarli comunque basta non andarci o andarci imbottiti di tritolo. Nella piramide umana Paolo Pulici è punk, Bette che è un borghese del cazzo, basta come esempio, no? Torino non era solo schermaglia calcistica ovviamente, era in maniera incredibile impronta, odore, direi puzza di Fiat. Ecco un altro derby della grigia città di Gianduia. Da una parte i fedeli, in senso proprio religioso, della fabbrica degli agnelli, non riesco proprio a scriverlo maiuscolo. Quelli che, meno male che gli agnelli hanno portato lavoro e benessere, bisognerebbe fargli un monumento. Dall'altra parte, logicamente, comunisti, anarchici, libertari in genere, che li vedrebbero bene nel basamento di un monumento. Io sono sempre tra questi. Non ho mai sopportato la differenza idiota, il bigottismo sociale, la sindrome dello zerbino che si è manifestata verso quei cancerosi maiali riveriti. È stato un errore specistico, non si trattava di ovini, ma di suini. Sarebbe bastato accorgersene in tempo. Nella Motor City piemontesi il tanfo della Fiat è e temo sarà sempre il tratto dominante. Forse solo i fan della Sacra Sindone, altro prodotto tipico sabaudo, hanno emanato la stessa bontà falsa e pelosa. Per recarmi in quella mecca della musica e della contraddizione devo pupparmi 40 km d'andare ed è altrettanto a tornare, prendere o lasciare. All'epoca, senza autostrade o superstrade, si tratta di percorrere la merdosissima statale 23, una strada larga come la cabina di un confessionale, piena di pullman e auto di vecchietti di campagna, già ubriachi alle 8 di sera, che la percorrono ai 30 all'ora. Uno dei motivi per cui un ventenne degli anni 80 va fino a Torino in treno o con quelle strade di merda si chiama rock and folk. È un negozio alternativo, allora il termine era usato e sensato, dove si può trovare punk, metal, new wave o musica giusta appunto alternativa in una cornice umana notevole. Crocchi di metallari, crestati, mods e altro popolano la piccola via Viotti dove il negozio è situato. A quel negozio devo molto, ci ho comprato proprio roba di Franti, Negazione, Contrazione e altri vinili storici che manco ricordo. Gran posto, gran pomeriggi e grande senso di avventura nella grande città. Tu prova a passare dai trattori alla Mola Antonelliana e vedi se non ti gira la testa. Da rock and folk ricordo di aver messo le mani sulle prime fanzine della mia vita. Mi maledico per averle perse quasi tutte negli innumerevoli traslochi della mia vita. Mi ricordo che ce n'era una chiamata Pancaminazione. Di quella ne ho ancora una copia da qualche parte. Da questi fogli assemblati autenticamente da spiriti autentici, ere geologiche lontane dal copia e incolla, scopro che puoi scrivere del cazzo che ti pare, anche in modo molto piacevole da leggere, e che puoi organizzare attività senza che siano organizzate da partiti, associazioni o simili. Non è un salto da poco, perché ha sempre pensato che la delega sia irrinunciabile, come il messaggio periodico del proprio pisello. Da quella lettura, da quell'humus, rimango impressionato dal fatto che Franti non ama definirsi una band, un gruppo, un complesso o così via, bensì un collettivo, e per giunta aperto. Io, che come hobby di ventenne, memorizzo le formazioni dell'Inter o le line-up dei gruppi dei 70s, strabuzzo gli occhi davanti al fatto che un combo musicale possa avere una formazione variabile. Un'altra barrierona mentale si schioda come fosse una trave di legno durante un'alluvione. E poi sta storia delle accerchiate. All'inizio non capisco di che si tratti, poi anche grazie ai fratelli maggiori apprendo che l'anarchia non è il disordine come sosteneva quella testa di cazzo di parroco negli anni del catechismo, ma è probabilmente la forma di ordine umano più vera e più completa. È il rispetto naturale che intercorre tra persone sensibili che non hanno l'ambizione di incularsi l'un l'altro. Un altro bel salto. E da lì si va in biblioteca a cercare i primi testi su quella cosa così strana. Per fortuna poi l'occupazione di El Paso a fine 1987 sarà fantastica e utilissima anche in quel senso, ma questa sarebbe un'altra bellissima storia. La scoperta dell'anarchismo è comunque sugli stessi binari della scoperta di Franti, su questo non ci sono dubbi, e mi accompagnerà per tutti gli anni passati in fabbrica e anche dopo. Una cosa che mi è sempre piaciuta dei Franti è che mi hanno permesso di fare dei figuroni da personaggio colto in svariate situazioni. In fabbrica, a inizio anni 90, era stupendo iniziare i volantini contro il padrone e le sue funzionalissime rotoline di CGL, CISL e UIL con frasi tipo «Il sole scalderà gli ultimi piani, ma nei reparti c'è disperazione. Poco sole, pochi giochi e non c'è un cazzo da scherzare». E giù commenti del tipo «Va che cazzo di frase, ma come ti vengono?» E poi, vuoi mettere il delirio di schiaffare in bacheca tutte le nostre, giuste, assolutamente giuste, considerazioni arrabbiate, firmate firmate individualità anarchiche, metalmeccanici, comunisti, libertari o simili. Tutta farina del loro sacco che avevamo preso a prestito e che attirava comunque l'attenzione di quello stanco mucchio un tempo selvaggio, che erano i metalmeccanici di 20-22 anni fa, stanchi cazzi ormai, non più turgidi, imbarazzanti nelle loro tute blu blandite da 10 anni di riflusso. A queste semicitazioni e a quel periodo così contraddittorio in cui ci si sentiva come i Navajos nelle riserve o i panda in estinzione in cerca di un'improbabile riproduzione in cattività, si accompagnava una vorace scoperta del pensiero anarchico. Arriva un momento nella vita di noi salmoni bipedi, masochisti teste di cazzo che si ostinano a ricercare la sorgente inesistente di un fiume, che in realtà è una cascata, in cui la falce e martello a volte ti calza stretta e il tuo modo per portare le branchie, oltre la merda senza che questa ti riempie i polmoni, è tatuarsi nel cervello un senza servi, niente padroni, che funge al tempo stesso da salvagente e da paracadute. di questo tempo già così calante e sfortunato, ho mille percezioni retroattive: odori, volti, suoni, sapori, sollecitazioni, odio e mille altre ancora che si associano quasi automaticamente con la sensazione di cemento, cemento, cemento, cemento, che è il timbro indelebile della Detroit de Noantri, la marcia Torino, in cui l'asfalto era ed è fetente come spalmato di bitumi merdosi, certamente prodotti dalla mercissima Fiat dei mercissimi Agnelli, loro e la loro gobba di merda, allegoria perfetta di una società stringente, ottusa, cattiva e arrogante. Frantianamente mi dichiaro in direzione ostinata e contraria. Scriversi, descriversi, riscriversi a tanto tempo di distanza è un esercizio ingenuamente doloroso, interessante, divertente, ma è certamente un rilevatore dei cambiamenti. Certo, il tema sei tu stesso e per una volta non ti scrivono gli altri con le loro aspettative, nelle quali non ti riconoscerai mai, ma il cambiamento emerge in tutta la sua inarrestabile potenza. Ripensi a dei luoghi e ti accorgi che sono altri rispetto ad allora. È il progresso, baby. Ripensi a delle facce e le vedi come allora, anche se sai che è una tua personale generosa rivisitazione. E questo vale per tutte le tue galassie personali. L'antagonismo, il mainstream, la parola alternativo e tutti i pianetini che orbitano attorno alla tua testa. Tutto è stato frullato da giorni che sono passati con i loro sedimenti, i loro detriti, scorie, scarti, chiamali come vuoi. Ha un senso? Non lo so. Non ho una risposta, né mi pare così importante. Resta un bagaglio di emozioni che, come le canzoni, vanno comunicate fino in fondo. Se a qualcuno interesseranno, sarà un bel modo di rimanere vivi. Allora, questo è appunto... era la pietra numero 2, un racconto all'interno del libro sui Franti, perché era lì, Antistorie da una band non classificata. E quindi mi sembra giusto chiudere questo racconto con un pezzo dei Franti. Loro sono i Franti e questo è 1984. Allora, questi appunto erano i Franti. Noi andiamo a chiudere la trasmissione questa sera, sono le 22:36. E insomma, ringraziamo Emanuele di esserci venuti a trovare. È stata una piacevolissima. Grazie a te, caro Dario, per il tempo concessomi. Ma grazie a te, va bene. Allora, magari insomma ci risentiamo da questi microfoni anche prossimamente, se vuoi tornare a collaborare, a chiacchierare, insomma sei sempre il benvenuto. Che dire? Allora, quindi già Manuela ha scelto il brano di chiusura con cui ci saluterà. Noi l'appuntamento lo diamo per martedì prossimo, sempre dalle ore 21 alle ore 22:30. Sempre su Radio Onda Rossa. E quindi l'appuntamento del martedì sera con Do It Yourself Invasion. Non l'abbiamo detto a inizio trasmissione, vi ricordiamo che per scrivere questa trasmissione potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. E quindi per segnalarci le vostre iniziative oppure per mandarci le vostre autoproduzioni, sicuramente è uno spazio vostro. E quindi fatelo. Allora, pezzo di chiusura con cui ci saluta Emanuele per questa sera. Cosa ha scelto? Sì, ho pensato una canzone di un LP, diciamo, avanzato dei Kina, da Parlami Ancora, LP uscito per Blue Bus del 1983, Tempo di Cambiare. Mi sembra una buona chiusura. Ottimo, ottimo. E noi il saluto più caloroso, oltre a voi che ci avete ascoltato per questa sera, va a tutti e tutte. Le persone, i compagni, le compagne che si trovano dietro le sbarre. E quindi a martedì prossimo, dai! Quel que es.